il sistema idrico. Il sistema idrico fa ormai parte della nostra esistenza cosiddetta civile, sia che si abiti in città, sia che si abiti in paesi e villaggi dalle proporzioni e dalle complessità più modeste, tranne rarissimi casi, ci siamo abituati al fatto che in ogni casa arrivi l'acqua. E non solo. Ci siamo abituati al fatto che in più punti di ogni casa quest'acqua, azionando con un congegno piuttosto semplice, che quest'acqua possa sgorgare, e così sgorga l'acqua dai rubinetti della cucina, nella vasca da bagno, dallo sciacquone del gabinetto e da altri orifizi. Tuttavia, proprio perché ormai tanta è tale l'abitudine, proprio perché i processi di specializzazione accompagnano un po' tutto il nostro universo, proprio perché ad ognuno di questi processi finiamo con l'associare un valore, non si può dire che tutta quest'acqua sia uguale. Fisicamente sì, vabbè. Fisicamente sì che è uguale, puzzolente, inquinatissima tutta, ma mentalmente no. E voglio dire che se uno deve mettere sul fuoco una minestrina, ecco, l'acqua non va a prenderla dal bidet. Nella gerarchia delle funzioni, l'acqua di cui nutrirsi occupa un posto diverso dell'acqua di cui lavarsi. E anche nel lavarsi vigono parecchie differenze a seconda della parte di corpo che va lavata. Ciò premesso, chiariamo alcuni concetti in relazione alla frequenza cardiaca. Il sangue circola un po' dappertutto. Circola un po' dappertutto grazie a quello che commercialmente verrebbe definita una rete ben distribuita. Questa circolazione che al suo massimo implica un carico che può comportare dai 25 ai 35 litri al minuto, è assicurata dai cicli di movimento del muscolo cardiaco. Questi cicli variano in dipendenza delle condizioni posturali del soggetto, nonché del suo livello di allenamento. Facciamo un esempio. In quegli stessi soggetti non allenati che se sdraiati sul dorso rispettano la media, mettiamo, di 78 battiti al minuto, se in piedi salgono a 84. In atleti invece, quindi gente perfettamente allenata si presume, se da sdraiati si riscontrano 65 battiti, da in piedi, invertendo addirittura la tendenza, diciamo che possono passare a 64, un battito in meno. Dati del genere li cavo da corpo movimento prestazione, un volume, una specie di somma per gli operatori sportivi, realizzata una decina d'anni fa dalla collaborazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e dal Comitato Olimpico Nazionale, da cui per comprendere quanto sia fondamentale l'allenamento sull'apparato cardiocircolatorio, veniamo anche a sapere che atleti molto allenati nelle specialità di resistenza hanno una frequenza cardiaca a riposo di soli 40 battiti al minuto. La diminuzione della frequenza cardiaca a riposo, peraltro, sarebbe già riscontrabile anche dopo poche settimane di allenamento, significando così una buona capacità di adattamento del sistema cardiocircolatorio. Per l'insegnante e per l'allenatore, dunque, la registrazione di questa diminuzione è un momento essenziale di verifica. Per l'esattezza, meno battiti testimonierebbero l'efficacia dell'attività motoria in atto per far aumentare la resistenza. Deve essere in ragione di ciò, allora, che ogni buon manuale, come quello che ho consultato io, dedica una certa attenzione alle tecniche relative al rilevamento della frequenza cardiaca. Insegnanti e allenatori, responsabili di programmi per il condizionamento fisico dei giovani che sono stati loro affidati, di solito coerentemente insistono non poco perché i loro allievi imparino non solo a rilevare correttamente dall'arteria radiale nel polso o dalla carotide nel collo, per lo più meno frequentemente dalla regione cardiaca nel petto, a rilevare correttamente il numero dei battiti altrui. Ecco, non solo insistono su questo, ma insistono anche che imparino a rilevare il numero dei propri battiti per sviluppare una capacità di autoanalisi che potrà rendersi utile in tantissime occasioni, nello sport come nella vita. Attento e scrupoloso, attento e scrupoloso è stato allora quel professore di ginnastica in un liceo femminile che giorni or sono è stato denunciato alla magistratura. Bisogna ammetterlo, attento e scrupoloso, insegnava alle sue allieve e gli esercizi giusti e il modo più diretto per constatarne gli effetti sull'apparato cardiocircolatorio. Peccato per quel suo anticonformismo che d'altronde difficilmente avrebbe potuto passare inosservato. Memore che, come l'acqua in una casa moderna, il sangue è dappertutto nel corpo umano, e senza lasciarsi condizionare né dalle abitudini dei colleghi né dalla scala gerarchica delle arterie, lui, democratico convinto, esigente com'era, non si tirava indietro e alle allieve la frequenza cardiaca la rilevava lui stesso. La rilevava lui stesso a costo anche di finire nei guai. Perché, non so quanto scientificamente ineccepibile, la misurava dal pube. Oh,